String è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Beh, caro Fabio, ben trovato. Ovviamente, ma che sto a dire, amico, molto di più, tu sei molto di più per noi, sei anche una fonte preziosa di conoscenze a livello scientifico. Mamma mia, sono onorato di essere all'interno di Fujiko Bagno 103, per la prima volta Caccia al Fotone non è di sabato. È vero, e tra l'altro ci eravamo già risentiti, ti ricordi, nella stagione passata, estiva scorsa, quando comunque avevamo già fatto, insomma, delle collaborazioni nel pomeriggio estivo di Città Fujiko. Beh, innanzitutto ben trovato, ovviamente. Ovviamente questa ora la dedichiamo a te, la dedichiamo alla scienza. Adesso spiegherai tu in che senso e in che modo, perché oggi ci occupiamo di... Ci occupiamo di Luna, ci occupiamo dell'anniversario, del 40° anniversario del primo sbarco umano sulla Luna. Allora, normalmente qua le domande le facciamo e poi abbiamo le risposte dai nostri ospiti, però una domanda me la voglio fare e mi voglio rispondere. Siamo qui effettivamente per parlare di questo anniversario, e questo anniversario è un anniversario che noi, per esempio, noi che stiamo in studio non abbiamo vissuto, e quindi dobbiamo chiedere a chi veramente ha vissuto questo anniversario e chi studia l'astronomia come lavoro, che cosa è la Luna e che cosa rappresenta questo sbarco sulla Luna. Abbiamo in diretta telefonica il professor Flavio Fusipecci, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Bologna. Buongiorno Flavio. Buongiorno. E Marco Landi, ricercatore presso l'Osservatorio Astronomico. Vi abbiamo qui in diretta per parlare di Luna. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torneremo in studio cominceremo davvero con la trasmissione e cominceremo a sentire un pochino di suoni direttamente dalla Luna, parlando di quello che successe 40 anni fa. Giant steps are what you take walking on the bentornati in studio. Adesso stiamo cominciando la trasmissione sulle lune, quindi subito i contatti 333-180-9494 per inviare i vostri sms e cacciafotone@radiocittafugico.it per inviare le vostre mail. Allora, la prima domanda che ti voglio fare, Flavio o Marco, decidete voi chi vuole rispondere, è: che cosa successe quel 20 luglio 1969? Soprattutto, voi dove eravate? Allora, io ero a casa mia e ti dirò una cosa abbastanza divertente, per me è una serata importante perché quella sera io avevo allora, ahimè, già 21 anni, quindi sai, io sono del paleolitico inferiore, quindi diciamo piuttosto anziano, quella sera per la prima volta quella che sarebbe diventata mia moglie è venuta a casa mia a vedere la televisione, perché loro non avevano la televisione e io invece casualmente l'avevo. E quindi è venuta per la prima sera e abbiamo visto l'allunaggio, come si dice, l'atterraggio sulla Luna, come ti pare a te, insieme. Quindi da questo punto di vista è stata una serata abbastanza storica e memorabile per tanti aspetti. Flavio, mi vuoi dire che Galeotto fu la Luna? No, era già stato Galeotto da tempo, voglio dire, perché ormai erano 4-5 anni che ci conoscevamo. Però hai capito, la serata è stata così importante perché è stato un momento di passaggio. È venuta per la prima volta per Bacca a casa mia, i miei non la conoscevano, hanno detto: accidenti, questa signora, signorina, aspetta, perché, hai capito? Quindi è una data, ti dirò, già che ci siamo, perché partiamo con una cosa di tutto familiare. In queste ore intanto sta nascendo mio nipote, cioè il figlio di mio figlio, penso un po' tu, quindi, perché sarà, non so se lunare o lunatico, come sarà, si scoprirà poi. Beh, in qualche modo insomma la luna segna la tua vita. Insomma, sì. una traccia importante nella mia vita, mettiamola così. Te la ricordi la trasmissione di Tito Stagno in cui veniva annunciata lo sbarco sulla Luna? Sì. Naturalmente non possiamo dimenticarci, io ripeto, avevo già l'età di quasi ragione, quindi me la ricordo perfettamente. La cosa veramente divertente fu la discussione con Ruggero Orlando, al toccato, non ha toccato, via dicendo. Ne stavamo parlando proprio prima qui con il mio amico Marco Orlandi, il quale invece dove eri, Marco? Io ero al mare, io ero un po' più piccolo di Flavio, avevo 11 anni, ero al mare con la famiglia ed è una notte indimenticabile anche per me, perché eravamo nella pensione a Rivabella di Rimini, saletta TV, con genitori, amici, amichetti, amichette, un sacco di gente, con tutti stravaccati sui divani, quelli che ci stavano, sui cuscini del dondolo a guardare la TV. È tutta notte, insomma, ci siamo fatti prima l'allunaggio e poi lo sbarco di Armstrong. Io vi voglio interrompere un attimo, perché fra i vari file audio che abbiamo recuperato per questa trasmissione speciale abbiamo anche il file audio che racconta un pochino come andò quel momento in cui venne annunciato lo sbarco sulla Luna. Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17. Posso chiedervi esattamente qual è la sensazione che avete provato proprio nel momento in cui c'è stato l'atterraggio, quindi lo sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna? Ma nel mio caso, un senso di rasserenamento, perché bene o male ero preoccupato, perché la cosa non era poi così semplice. E per di più ci fu questa cosa curiosa che Ruggero Orlando in pratica l'ha detto 40 secondi dopo, questa differenza, e quindi in qualche maniera era una situazione lievemente ansiosa, allo stesso tempo clamorosa. Devo dire che l'impatto psicologico fu notevolissimo, insomma. Tu, Marco? Io ero appunto un bambinetto un po' cresciuto, e però fin da piccolissimo avevo questa mania dello spazio, degli astronauti, dei marziani, e per me era abbastanza normale che le cose andassero bene. In realtà poi dopo, con gli anni, ho capito che la cosa era molto più rischiosa di quello che appariva a una mente giovane e inesperta come la mia. Ecco, poi anche il discorso di Stagno e Ruggero Orlando, un bambino non l'aveva percepito come potrebbe averlo percepito un po' più grande. Ecco, in seguito abbiamo capito anche il problema che era nato. Se volete possiamo anche spiegarlo un po' meglio, cosa è successo tra i due. Certo, una domanda ve la voglio fare, però prima di andare a analizzare un pochino quel dibattito che è avvenuto fra Tito Stagno e Orlando: se noi non fossimo andati sulla Luna 40 anni fa, come sarebbe cambiata la nostra vita? Ma la nostra vita sarebbe cambiata, certamente dipende, ognuno di noi chiaramente lo può vedere diciamo in una maniera diversa. Dal mio punto di vista sarebbe stato una cosa molto più misera, nel senso che l'arrivare sulla Luna è stato un passo fondamentale, perché ha fatto capire fra l'altro come le scoperte scientifiche, la possibilità di fare cose apparentemente incredibili, diventassero di colpo alla portata. Cioè, in qualche maniera, io quella sera mi sono reso conto, avevo ormai 21 anni, fra l'altro studente di astronomia eccetera, appassionato di astronomia, mi sono reso conto come da quel momento in avanti andare sugli altri pianeti, fare altre scoperte, trovare altri pianeti sarebbe stata una cosa quasi normale. Adesso non voglio fare, no, il preveggente, dice con la testa di 40 anni dopo sono capaci tutti, però veramente è stata una svolta in questo senso, come aprire una nuova storia, e difatti credo che lo sia stato, tant'è che oggi la possiamo vivere così con questa tranquillità. Noi sappiamo che si andrà su Marte, si andrà altrove, non è un problema, è questione di tempo, di soldi e di tecnologia, ma si farà. Io penso che col senno di poi possiamo dire che forse speravamo che quel passo portasse cambiamenti più importanti di quelli che di fatto ha portato, almeno da un punto di vista oggettivo. Quando leggiamo la targa che hanno lasciato gli astronauti, e dove scrivono che sono andati in pace in nome di tutta l'umanità, forse a quell'epoca si sperava che questo auspicio portasse effettivamente più pace, più fine di conflitti e via di seguito, cose che in realtà non sono successe. Però ecco, come diceva Flavio, al di là di quello che poteva essere e non è stato, rimane oggettivamente il fatto che l'umanità ha dimostrato che quando ci si mette può produrre anche qualcosa di buono, di molto buono. Ecco, poi ci siamo fermati, però le premesse ci sono tutte per fare qualcosa di buono anche in futuro. Peraltro normalmente gli americani chiamano questo evento la conquista della Luna, in realtà è stato solamente l'atterraggio sulla Luna, perché pochi mesi prima dell'atterraggio lunare, effettivamente l'UNESCO definì la Luna come patrimonio dell'umanità, quindi effettivamente la Luna è un patrimonio dell'umanità e in realtà non va toccata, è stata l'umanità che è atterrata sulla Luna, certo, non tanto gli Stati Uniti. Però tu, Fabio, sai benissimo che allora è stata la tappa finale di una gara, voglio certo, dire. Certo, stiamo parlando della guerra fredda. Io che ero abbastanza grandino già, voglio dire, nel 1957, mi ricordo quando ci fu la questione dello Sputnik, non è che gli americani l'avessero presa proprio bene bene, voglio dire, quindi è stata una gara che è continuata 10-12 anni e si è conclusa in una maniera, fra virgolette, allora vista come vittoriosa dagli americani sugli altri, perché no? Kennedy aveva detto nel 61, entro la fine del decennio andremo sulla Luna, e ci sono andati. Da notare una cosa che fra l'altro neanche io sapevo, che ho scoperto questi giorni: nella stessa giornata in cui gli americani sono arrivati sulla Luna, una sonda sovietica è arrivata anch'essa sulla Luna, si è andata a spattaccare sulla Luna, per così dire, in maniera un po' brutale, creando un terremoto che è stato anche registrato dai sismografi che c'erano sulla Luna. Quindi la gara era veramente una gara allora. Vi interrompo un attimo perché per motivi radiofonici adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continueremo con la nostra discussione. Certo. Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mister in the coffin's gone messing. Ci siamo interrotti, Flavio, proprio parlando della guerra fredda, quindi parlando del momento in cui la Russia prima vinse la guerra, anzi la corsa verso lo spazio, e poi nel secondo periodo, quindi il momento tra virgolette più decisivo, in cui fu l'America a vincere questa corsa allo spazio. Che cosa vi ricordate voi effettivamente di quella corsa allo spazio, e soprattutto tu, visto che avevi 21 anni, quindi eri nel momento di maggiore maturità, insomma? È un periodo molto curioso, era un periodo curioso in questo senso, che corrispondeva allo stesso tempo allo sviluppo dell'Italia in maniera spettacolare. Dagli anni 57 fino a 63-64 l'Italia era uno sviluppo poderoso, uno sviluppo anche di speranze, di illusioni, eccetera, ed è finito in fondo nel 69 con la svolta, diciamo, del periodo burrascoso dell'università. Io infine facevo l'università e mi ricordo come sono cambiate le cose. Allo stesso tempo però, dicevo, nonostante ci fosse questo clima di guerra fredda, di competizione, c'era anche, almeno a livello nostro italiano, un clima di grandi speranze, di grande innovazione, di grande sviluppo tecnologico, di sviluppo della vita delle famiglie, di possibilità di speranze e dialogo fra le persone. Quindi era un periodo molto strano, e certamente c'era un po' anche questa competizione forte che noi giovani vivevamo in maniera strana, nel senso che all'inizio, quando all'inizio negli anni 57-58, la Russia era un problema, si vedeva come un problema, e quindi in qualche maniera lo sviluppo degli americani era un po' che vincessero i cowboy, in qualche maniera eravamo così. Poi tu sai meglio di me, penso che chi ci ascolta lo capisce altrettanto bene, strada facendo abbiamo cambiato tante idee sullo sviluppo della potenza americana, io penso agli anni poi del Vietnam e via dicendo, per non arrivare ad oggi, diciamo. Però certamente in quegli anni la visione era tutto sommato forse più favorevole agli americani che non agli altri, almeno la mia visione allora era questa, insomma. Il momento in cui partì questa competizione allo spazio fu il momento in cui in realtà la Russia vinse la prima parte, quindi lanciò in orbita lo Sputnik, e lo anticipavi tu prima. E nel 1961 Kennedy fece un famoso discorso, e noi abbiamo l'audio. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Stiamo vivendo un po' una cosa molto simile dal punto di vista politico in questo momento, in cui Barack Obama, che ha più o meno lo stesso carisma, anzi forse di più di quello che aveva Kennedy, sta praticamente dando una spinta alla ricerca scientifica. In quel momento Kennedy decise di puntare verso la gara verso la Luna. In quale modo questa decisione di Kennedy rivoluzionò tutta la cultura del mondo? Perché qua non stiamo parlando solamente di una nazione che ha vinto contro un'altra nazione, ma stiamo parlando di un'umanità che ha sviluppato una serie di tecnologie che l'ha portata non solo nello spazio, ma l'ha portata a fare le scoperte più meravigliose che viviamo ancora oggi. Non c'è dubbio, la questione della gara va vista anche in questi termini. Nel 61 c'è stato il lancio di Gagarin, quindi l'uomo, primo uomo nello spazio, quindi lì la gara era veramente una gara, diciamo. Va considerata anche una cosa molto interessante, cioè che lo sviluppo tecnologico è stato poi incredibile ed è veramente quasi irruento, nel senso che se noi pensiamo alla tecnologia degli anni 50-60, all'inizio degli anni 50-60 era praticamente inesistente rispetto a quella che ha portato l'uomo sulla Luna, ma quella che ha portato l'uomo sulla Luna può essere considerata quasi inesistente da un certo punto di vista rispetto a quella che abbiamo oggi. Basta pensare l'incredibile sviluppo che hanno avuto i computer, i calcolatori. Il calcolatore che aveva a bordo il LEM era una sciocchezzola, un giocattolo rispetto a quello che abbiamo oggi. Quindi non c'è dubbio che c'è stato uno sviluppo incredibile della tecnologia, ma non solo in questo settore. Tu pensi al settore della criogenia, trasporto dell'energia, efficienza delle macchine, cioè è stata una rivoluzione incredibile, e quindi in questo senso è veramente stata una svolta. E certamente lo slancio che ha dato Kennedy è stato uno slancio in qualche maniera di molla di testa, diciamo, posso dire, di apertura delle teste ancora più che la potenza economica che poi si è sviluppata. Se posso aggiungere una cosetta, certo. Io direi questo: il discorso di Kennedy è splendido per l'epoca, bisogna anche vederlo appunto. Bisogna, diciamo, contestualizzarlo, ecco, perché nell'aprile del 61 i russi avevano mandato Gagarin, che aveva fatto un'orbita attorno alla Terra, e gli americani ai primi di maggio avevano lanciato il primo astronauta, che però aveva fatto semplicemente un boletto, una traiettoria balistica, per cui erano comunque indietro. Però Kennedy a quel punto, soltanto 20 giorni dopo il lancio di Alan Shepard, fa questo discorso e praticamente prende di sorpresa tutti, i russi ma soprattutto la NASA. Noi sappiamo che i vertici della NASA, nel sentire il suo discorso, si mettono le mani nei capelli e si chiedono: ma possiamo veramente farlo? Ecco, da lì comincia effettivamente la rivoluzione, e sappiamo poi com'è andata. Quindi effettivamente la gara nasce per motivi soprattutto politici, perché chiaramente in quel momento l'Unione Sovietica era in vantaggio da un punto di vista tecnologico, ma anche morale per certi versi, perché effettivamente metteva a segno colpi su colpi. Gli americani, trasponendo, diciamo, la guerra fredda sul lato spaziale, riescono a riguadagnare il tempo perduto, indubbiamente. Adesso ci andiamo ad ascoltare un altro piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e parleremo un pochino della missione Apollo, quindi non solo dell'Apollo 11 che effettivamente è atterrato nel mare della tranquillità, ma parleremo di tutto uno sviluppo della missione Apollo che poi ha portato l'uomo non solo con l'11 ma fino al 17 ad atterrare sulla Luna. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations, the sea of the simulation. Keep your feelings in memory, I love you especially. Telescopi giganti per seguire le stelle. Thank you. Beh, prima di tutto vi volevo chiedere se effettivamente vi piace questa scelta musicale. Questo è per esempio Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Eccezionale, sono sì. Molto bene, bravo. Perfetto. Sentite, prima di cominciare con la parte tra virgolette più scientifica, quindi la parte in cui proveremo a capire di che cosa è fatta la Luna, e proveremo a capire che la Luna non è fatta di formaggio come si diceva in Wallace e Gromit, volevo un po' parlare un po' delle curiosità che sono state messe in rete in questo momento. Per esempio Google ha messo Google Moon, una specie di territorio virtuale in cui si può camminare tranquillamente come si può camminare sulla Terra. Poi Microsoft ha lanciato il World Wide Telescope. Su Second Life è stata ricostruita il mare della tranquillità dove sono atterrati gli astronauti. È stato aperto We Choose the Moon, che peraltro è un bellissimo sito in cui si ripercorrono tutte le tappe dell'Apollo 11, e quindi effettivamente dove sono atterrati questi astronauti, quindi la Luna di che cosa è fatta? Dunque, intanto la Luna non è fatta di latte, come diceva nella storia di Calvino, quando nelle cosmicomiche, quindi che sai, andavano su con la scaletta e prendevano via del latte tipo ricotta e se lo portavano giù. La Luna è fatta sostanzialmente di qualcosa che è molto simile alla Terra, tant'è che la teoria di formazione della Luna, dell'impatto, spiegherebbe perfettamente il fatto che sostanzialmente la Luna viene dalla Terra ed è più o meno costituita dagli stessi elementi, quindi a grandi linee. Se uno arriva sulla Luna trova sostanzialmente questa bella polvere, come ha trovato il buon Armstrong, e gran parte di questa polvere è fatta di regolite, ne possiamo parlare, che contiene in pratica del silicio, vedremo, è una delle possibili utilizzazioni. Per il resto ha il suo buon nucleo, un parte ferroso, è un oggetto, diciamo, per tanti aspetti fra virgolette banale, nel senso che non è questa cosa così spettacolare. È chiaro che per noi è una cosa meravigliosa, perché ovviamente siamo abituati anche a vederla dalla Terra in una maniera bellissima, no? Senza andare a tirare fuori le canzoncine alla Blue Moon, per cui noi abbiamo questa visione meravigliosa. Però in buona sostanza, da un punto di vista complessivo della chimica e della costituzione, non è molto diversa dalla Terra, in buone parole, insomma. Io vorrei aggiungere una cosetta riguardo a quello che hai detto poco fa, cioè tutto questo fermento di attività, di siti che nascono, di informazioni che vengono date, è una cosa che mi sorprende per certi versi, perché in altri momenti, in altri anni non ho trovato mai un simile interesse per la Luna e per lo spazio, per cui secondo me ben venga tutta questa attività. In particolare vorrei aggiungere anche un'altra cosa sui... c'è una sonda attualmente, si chiama LRO, che sta orbitando attorno alla Luna, è una sonda della NASA, e che proprio in questi giorni sta rimandando delle splendide fotografie dei siti di allunaggio, e si vedono, ed è molto emozionante secondo me, in piccolo ancora, perché la sonda è ancora in orbita alta, si vedono quello che rimane degli stadi di atterraggio dei LEM con le loro ombre. Questo mi fa piacere, anche perché probabilmente qualche luna complottista finalmente starà zitto, ecco, anziché propagare delle fesserie, cioè sulla Luna ci siamo andati. Ecco. Peraltro, se non erro, hanno mandato proprio delle foto nel punto dove sono atterrati, dove c'è l'ombra. Esattamente, certo. Si vede il LEM e si vede l'ombra. Sì. Comunque, per chi ci ascolta, se vuole, l'INAF, il nostro Istituto Nazionale di Astrofisica, quindi il nostro ente ufficiale che si occupa di astronomia, apre oggi pomeriggio una pagina interessante che si chiama www.vacanzesullaluna.com, dove viene spiegato come andare a fare delle vacanze sulla Luna, così si può trovare di bello. In passato c'è stato anche un altro sito che parlava di come si potesse sciare sulla Luna e confrontarsi con come si scia sulla Terra, cose di questo genere. Quindi se ne trova di tutto e di più, ognuno si può sbizzarrire a cercare quello che vuole. Intanto vi chiedo di prenotarmi un posto per andare sulla Luna, perché non mi dispiacerebbe andare. Sì, magari trovi un posto da lavorare là fisso per fare l'astronomo, perché tu sai che una delle tante ipotesi è di voler fare una base di studio dell'astronomia sulla faccia opposta della Luna, sulla Luna nera, diciamo così, che no? Quindi potresti andare a lavorare lì, magari potresti trovare un buon stipendio e divertirti. Peraltro magari andrei a lavorare al radiotelescopio che vogliono costruire nella faccia nascosta della Luna. Appunto, vai là e così. Tra l'altro c'è una cosa interessante, no? È una battuta. Quando la prima cosa che mi ha impressionato della Luna è stato con Apollo 8, quando questi hanno girato intorno e sono andati per mezz'ora, non potevano comunicare con niente ed erano gli uomini più isolati dell'universo. Insomma, fra l'altro mi divertiva l'idea che loro dalla parte di là potevano dire: la Terra, con tutta la sua storia millenaria, milioni di anni, sparita, non c'è più. È un aspetto molto divertente, mi ricordo che mi colpì moltissimo questo aspetto. Infatti, se posso aggiungere, la missione Apollo 8 è una missione probabilmente sottovalutata per certi versi, ma in realtà fondamentale, perché è stata la prima volta che degli uomini si sono allontanati dall'orbita terrestre, sono andati a orbitare attorno a un corpo celeste che non era il nostro pianeta, e se ne parla poco, ma hanno effettivamente tracciato la strada per le missioni successive. Voi avete citato la parola Apollo, che è effettivamente la missione che ha portato poi l'uomo sulla Luna, però si ricorda normalmente della missione Apollo solamente due missioni, la 11 che è stata la prima che ha atterrato e la 13 che effettivamente è tornata indietro per via di un malfunzionamento al raggio vettore, perché c'era una perdita di ossigeno. Ma effettivamente perché era importante visitare la Luna, a parte vincere contro la guerra allo spazio, contro la Russia, eccetera eccetera? Perché era così interessante andarla a visitare, e per quale motivo poi sono state fatte così tante missioni per andare a guardare come era composta, che cosa c'era, eccetera eccetera? Diciamo che in realtà era importante in quel momento soprattutto da un punto di vista politico, tanto è vero che in realtà non ne sono poi state fatte tante di queste missioni, perché compresa la 13 che in realtà non ha effettuato l'allunaggio, erano soltanto 7. Le missioni Apollo si sono concluse con la 17, avrebbero dovuto concludersi con la 20, però già a cavallo della 15-16 si era deciso di cancellarne alcune, un po' per motivi di costi, un po' perché effettivamente l'obiettivo era raggiunto. Aggiungiamo che tra gli equipaggi delle missioni Apollo che sono scese sulla Luna non ci furono scienziati fino all'ultima missione. Fu Harrison Schmitt, che era un geologo, il pilota del modulo lunare di Apollo 17, che fra l'altro entrò nella missione di straforo perché doveva volare sulla 18. Quando la 18 venne cancellata, si decise in extremis di far scendere un geologo sulla Luna, e Joe Engel, che doveva essere il pilota del modulo lunare di Apollo 17, venne spostato su Apollo 18 sapendo già che non sarebbe andato sulla Luna. Quindi ecco, in realtà il discorso esplorazione, scienza, sì, è entrato un pochino in ballo nelle ultime missioni, tra la 15 e la 17, soprattutto con la 17, appunto, anche con la 16, però in realtà soprattutto c'era un motivo politico fondamentalmente. Ciò non toglie che è stato un ottimo motivo ugualmente per mandarci sulla Luna. Senti, effettivamente, quindi tutte le missioni Apollo, in realtà una è differente dall'altra, quindi ci sono delle missioni che hanno cercato di esplorare la Luna per cercare di capire come era composta, altre che sono state missioni geologiche, altre che hanno cercato di capire effettivamente cosa c'era nel sottosuolo. Quindi effettivamente le missioni Apollo hanno tutte un significato differente. Beh, hanno un significato differente soprattutto da un punto di vista geologico, ecco perché sono stati scelti dei punti di atterraggio geologicamente dissimili. Ciò non toglie che ecco, ogni missione in ogni caso è stata fatta, visto che c'erano, sicuramente uno dei motivi principali era quello di riportare a terra delle rocce da analizzare, quindi ogni missione ovviamente a seconda del tipo diverso di terreno che ha incontrato ha dato informazioni nuove e diverse, soprattutto ripeto le ultime, perché tenete conto per esempio la missione Apollo 11 con una permanenza, diciamo una EVA, cioè un'attività extraveicolare di poco più di 2 ore, ha portato 22 kg di rocce lunari sulla Terra. L'ultima missione ne ha portate più di 100, sono stati 382 kg in totale, per cui questo dimostra che c'è stata un'evoluzione sia nel profilo di missione che negli obiettivi di studio. Marco, un'altra cosa di cui si parla normalmente è che sulla Luna ci potrebbe essere dell'acqua. Ora, ci sono missioni che affermano che sulla Luna ci può essere dell'acqua, alcune missioni che invece vanno a guardare e in realtà quest'acqua non c'è. Come stanno effettivamente le cose? Dell'acqua c'è sulla Luna, ma in che forma e soprattutto dove? Questo è un po' difficile da dire, ragionevolmente forse sotto la superficie si parla di permafrost come nelle regioni polari terrestri, nella tundra, però c'è ancora molto da lavorare. C'è comunque la speranza che ci sia qualcosa, tant'è che le prossime missioni, tu sai che si tornerà probabilmente sulla Luna 2020-2025 e magari ci torneranno i cinesi o gli indiani che hanno più spinta anche politica per provare ad andare, e comunque tutti pensano di andare a lunare o atterrare come voi verso il polo sud, dove ci si aspetta che eventuale acqua sia più mantenuta. Potrebbe esserci dell'acqua indotta da cadute di parti di comete in qualche maniera portate dall'esterno, quindi è una situazione abbastanza complessa. Certamente se si trovasse anche un po' d'acqua, anche quella che viene contenuta in un piccolo lago, sarebbe estremamente utile se fosse sotto forma ghiacciata, perché potresti utilizzarla poi per fare ossigeno e via dicendo. Fra l'altro c'è una cosa abbastanza curiosa: l'Apollo 12, a proposito di differenze fra una missione e l'altra, riportò a casa un microorganismo che era stato lasciato, uno streptococco, che era stato lasciato dalla sonda Surveyor 3, che era stata portata sulla Luna nel 1967, e questo oggetto, questo batterio riportato sulla Terra, poverino, campava ancora tranquillamente, quindi se n'era stato per 2 o 3 anni a vivere sulla Luna tranquillo e beato, che dice insomma qualcosa di significativo. Quindi è abbastanza, diciamo, complesso andare a capire quale importanza scientifica ha avuto allora una missione rispetto all'altra. Quello che conta è che l'insieme delle informazioni hanno costruito un quadro complessivo della Luna molto più chiaro e molto più organico, sia sulla sua struttura attuale, sia sulla sua formazione, sia sul possibile utilizzo della Luna per fare qualcosa nelle prossime missioni. Magari ne parliamo dopo, se vuoi. Certo, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continueremo con la trasmissione. Grazie. Erano le 20:17 Universal Time del 20 luglio 1969 e il lander si stava avvicinando alla Luna. E questo è l'audio. Altitude, velocity, light. 8 and a half down. 220 feet. 15 forward. 11 forward, coming down nicely. 200 feet. 4 and a half down. 5 and a half down. 650, 6.5 down, 5.5 down, 9 forward. Io vi confesso che è effettivamente molto emozionante sentire questi audio, per me che non l'ho vissuta, che non ho 40 anni, quindi non ho vissuto questa esperienza, andare a risentire tutti questi vari suoni è particolarmente emozionante perché mi permette di rivivere in differita qualcosa che effettivamente non potevo vivere per via della mia età. Parlavamo prima dello sbarco sulla Luna, quindi effettivamente di quello che potremmo fare in futuro con la Luna. Ci sono molti progetti che prevedono di nuovo uno sbarco sulla Luna da parte dell'uomo, ma effettivamente per fare cosa? Beh, diciamo, gli scopi sono molteplici, ce n'è uno questa volta veramente scientifico, dettagliato, è di cercare di sbrogliare la matassa di qual è l'origine della Luna e quindi in un certo senso della Terra e della sua evoluzione. Forse chi ci ascolta sa che ci sono varie teorie. Diciamo proprio sinteticamente, la prima è la teoria della fissione cosiddetta, cioè che un pezzo di terra, per esempio un pezzo che prima era nell'Oceano Pacifico, si è staccato nel corso della rotazione della Terra e è andato a finire quindi in lontananza e ha creato questo nuovo aggregato che è la Luna. La seconda è che ci sia un'ipotesi di cattura, cioè che la Luna fosse un oggetto formato per conto proprio che andava a spasso nello spazio e veniva catturato dalla Terra. La terza ipotesi è che si siano formati insieme, il sistema rotante aveva un disco di accrescimento, il disco di accrescimento si è frazionato in più parti, una di queste è data la Terra, la più grande, e una data la Luna. Tutte queste teorie però hanno dei problemi fondamentalmente legati allo studio del momento angolare, adesso non la faccio complicata, è quella cosa per cui no, la ballerina che pattina su ghiaccio, se tiene le braccia aperte va lentamente, se stringe le braccia piroetta più velocemente, quello è chiamato, insomma, è collegato al momento angolare per capirsi. Una teoria che invece è in grado di superare problemi di interpretazione di questa cosa è quella che ho già detto dell'impatto gigante. Questa teoria è stata sostanzialmente lanciata da Hartmann e Davis nel 1975 e l'ipotesi è che un oggetto formatosi nell'orbita vicino alla Terra abbia impattato sulla Terra dopo qualche 30, 40, 50 milioni di anni dalla sua formazione e da questo impatto sia in qualche maniera costruito un nuovo sistema che è dato dal sistema Terra-Luna, che è molto peculiare. Questa teoria, per farlo sintetica proprio, è rafforzata da una serie di evidenze osservative, la composizione chimica del materiale della Terra e della Luna è abbastanza simile, ci sono sostanzialmente abbondanze dei cosiddetti isotopi corrispondenti. Che sarebbero forme diverse dello stesso elemento. Forme diverse, sì, per esempio c'è in particolare un insieme di elementi che si chiamano CREP, che sono K è il potassio, P è il fosforo e le altre sono le cosiddette terre rare, elementi chimici che sono esattamente contenuti allo stesso modo sulla Terra e sulla Luna. Quindi queste varie teorie, diciamo, potrebbero essere fra loro distinte e uno può sperare di capire tornando sulla Luna e facendo ulteriori studi, carotaggi e via dicendo. L'altro uso, vogliamo andare avanti o vogliamo interromperci un attimo? No, andiamo avanti. No, mi viene in mente che in realtà c'è un altro scopo che sarebbe quello dell'elio 3. Esatto, che è più importante. L'altro scopo è quello dell'elio 3 ed è un discorso in un certo senso semplice e complesso. Il semplice in cosa consiste? Siccome il materiale sulla Luna non ha intorno all'atmosfera, c'è un effetto di bombardamento dei raggi cosmici, insomma si forma abbastanza facilmente dell'elio 3 che si trova, c'è un isotopo, l'elio che abbiamo sulla Terra, il grosso, si chiama elio 4, due neutroni e due protoni. Questo invece è formato da due protoni e un solo neutrone, quindi è un elio leggero. Okay. Bene, qual è l'utilità? Se io trovo l'elio 3, l'elio 3 si combina con un altro elio 3 e i due insieme, dalla fusione di questi due elementi, elio 3 più elio 3, si ottiene elio 4 e due nuclei di idrogeno che se ne vanno per gli affari loro. In questo meccanismo si forma dell'energia, perché è una reazione nucleare classica, e questa energia può essere benissimo utilizzata. Siccome coinvolge una situazione di molto semplice, cioè un elio 3 con un altro elio 3 e non ci sono tante altre scorie particolari, questo meccanismo dà luogo a una fusione pulita e a produzione di energia. Quindi se riusciamo a procurarci dell'elio 3, tanto per dare un numero così ci capiamo, se portassimo giù dalla Luna 20.000 kg di elio 3 e lo mettessimo a fare questo ciclo di reazioni nucleari, potremmo avere l'energia per un anno degli interi Stati Uniti. Peraltro, da quando è stato scoperto l'elio 3, o almeno da quando è stata ipotizzata la presenza di elio 3 sulla Luna, c'è stata una specie di seconda corsa alla Luna. Infatti sia la Cina, sia l'ESA, sia la NASA si stanno impegnando in loro una missione lunare. Loro che pensano di poter fare, fra virgolette, un nucleare pulito ed efficiente, vorrebbero farlo con l'elio 3, non è una gara semplice, ci vorranno 30, 40, 50 anni, ma certamente è una strada, diciamo, interessante. L'altra, già che ci siamo così rapidamente, è poter sfruttare il fatto che sulla Luna abbiamo questo elemento che si chiama regolite, che sostanzialmente è a base di silicio, tanto per farla semplice. Il silicio, come noi sappiamo, è un elemento che è utilizzato nei pannelli fotovoltaici in tante condizioni. Anche nei computer. Anche nei computer, da tutte le parti, è un elemento importante, no? 14 protoni e 14 neutroni, quindi fra l'altro si forma in una catena con le stelle, ma insomma non la facciamo troppo lunga. Ma quello che conta è che utilizzandola io potrei costruire dei mega pannelli sulla Luna, produrre energia e mandare questa energia in qualche modo verso la Terra, e quindi diventa nuovamente una sorgente di energia per la Terra rilevante, a un costo naturalmente però elevato. Ci sono anche quelli che si oppongono e dicono: ragazzi, tutti questi soldi che spendete per andare a fare queste cose li possiamo utilizzare diversamente sulla Terra. Quindi è sempre un argomento di discussione, però certamente ha riaperto la corsa verso la Luna. Io ho visto addirittura alcuni progetti da parte della NASA che ipotizzano l'idea di andare a posizionare delle centrali tra virgolette nucleari di fusione di elio 3 proprio in loco, cioè senza andare a prendere l'elio 3 dalla Luna, portarlo sulla Terra e in qualche modo fargli fare energia, farlo direttamente in loco, che poi sono gli stessi progetti che prevedono poi l'installazione di basi lunari direttamente sulla Luna, con la produzione di un'atmosfera in delle specie di bolle. Bolle, certamente. C'è stato recentemente un congresso a Venezia molto interessante in cui si sono scatenati tutti i ricercatori, per esempio ha un impatto fortissimo sulla studio dell'agricoltura in condizioni particolari. Quindi tu hai parlato prima di bolle, io sono stato a questo congresso a Venezia dove spiegavano queste serre spettacolari in cui fra l'altro verrebbero prodotti anche tipi di vegetali non facilmente riproducibili sulla Terra, quindi esperimenti di tutti i generi, ivi compreso una produzione particolare. Perfetto. Allora Flavio, allora Marco, così ci conclude Caccia Fotone. Io intanto vi ringrazio per aver partecipato in diretta a questa trasmissione, ringrazio i nostri radioascoltatori e ascoltatori di Radio Città Fucico. Come al solito vi do appuntamento questo sabato in cui ci sarà la diretta normale tra virgolette di Caccia Fotone, e alla fine di Caccia Fotone, prima di dare il nostro consueto buon augurio, andiamo a sentire un pezzo che è proprio il momento in cui Buzz Aldrin a terra con il suo piedino sulla Luna. Grazie a te intanto per la musica. Grazie. Ciao. It's one small step for man, one giant leap for mankind.